Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:04, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Oggi su Repubblica c'è una mappa dell'Italia. La leggo così: Torino, presunte mazzette per corrompere l'Agenzia Italiana del Farmaco. Milano, presunte tangenti per aggiustare pratiche edilizie, racket del caro estinto. C'è anche a Firenze la vicenda sull'urbanizzazione dell'area Castello, sappiamo. A Pescara è stato arrestato il sindaco del PD per concussione, l'accusa. Poi insomma quella regione sappiamo cosa è successo in Abruzzo. Genova, presunta mensopoli, coinvolti ex consiglieri dei DS, l'ex portavoce del sindaco. Poi c'è Potenza, indagato un deputato, Salvatore Margiotta del PD, per il quale la Camera ha respinto peraltro la richiesta di arresto. Poi c'è Napoli, insomma, con la vicenda che è scoppiata lì, ma chissà, forse è scoppiata anche un po' a Bari, perché si incentra tutto su questo avvocato Romeo, imprenditore, che anche a Bari c'è qualcosa che non va. Forse si estenderà, qualcuno dice, i boatos anche a Roma. Insomma, il titolo di questa mappa è La nuova Tangentopoli italiana. È davvero così? È tornata Tangentopoli? Oggi Mino Martinazzoli, intervistato alla Stampa, dice come no, anzi ora è anche peggio, perché sono rimasti da allora dei detriti che probabilmente hanno peggiorato la situazione. 800 24 00 24, voglio salutare Piercamillo Davigo, buongiorno. Buongiorno. Giudice oggi alla Corte di Cassazione, ai tempi di Tangentopoli, sappiamo, uno dei protagonisti insomma del pool di Milano. Tra l'altro io voglio ricordare, l'anno scorso ha scritto anche un libro con Grazia Mannozzi, La corruzione in Italia, percezione sociale e controllo penale. Di corruzione insomma e di lotta alla corruzione si occupa da sempre. Partiremo da lui, che starà in apertura con noi per capire se è tornata davvero Tangentopoli o se non è mai finita, e dove cosa succede e cosa sta succedendo per quel che riguarda la corruzione in Italia. Alle 9:08 è la domanda che un po' si chiedono tutti gli italiani, vedendo i casi di presunte corruzioni, gli arresti, le indagini che stanno coinvolgendo moltissimi amministratori in Italia, moltissimi soprattutto in questi ultimi giorni, lo sappiamo, del Partito Democratico, e c'è stata anche c'è questo dibattito sulla questione morale a sinistra. Ci si chiede, insomma, è tornata Tangentopoli. Piercamillo Davigo, come detto, siamo un paese in cui dobbiamo sempre fare un po' dei raffronti, dei confronti, e è inevitabile sorge questa domanda. A lei a questa domanda banale cosa direbbe? È tornata Tangentopoli, non è mai finita? Ecco, non è mai finita. Due considerazioni. La prima è che ci sono organizzazioni internazionali che misurano il grado di percezione della corruzione, e da questi rilevamenti l'Italia risulta essere un paese molto corrotto. Il penultimo nell'Europa occidentale come classifica scolastica, nel senso quasi il più cattivo, e dietro a molti paesi asiatici e africani nella graduatoria di merito. La seconda questione è che non bisogna mai confondere ciò che accade con ciò che risulta dalle indagini giudiziarie, nel senso che le indagini giudiziarie scoprono solo una piccolissima parte dei casi di corruzione. La corruzione è un reato che ha quella che i tecnici chiamano una cifra nera molto elevata, nel senso che quasi mai viene denunciata, si scopre sempre facendo o quasi sempre facendo le indagini su qualcos'altro. E da allora è evidente che solo una piccolissima parte dei casi di corruzione viene scoperta. Quindi questo, unito alla considerazione che nessuna delle cause che avevano determinato la scoperta di quei casi, la esistenza di quei casi di corruzione scoperti massicciamente dal 92-94 è stata rimossa, fa ritenere che non sia mai finita. E dire che le statistiche direbbero il contrario, almeno le condanne per corruzione, per concussione, per tutti questi reati che coinvolgono la pubblica amministrazione, in questi 10 anni, almeno dai freddi numeri, dicono che sono diminuite drasticamente. Si sbagliano i numeri, sbagliano le statistiche. Sono diminuite le indagini e le condanne, non che sono diminuite i casi di corruzione. Le faccio un esempio: dai dati del casellario risulta che nel distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria in 20 anni ci sono state 2 condanne per corruzione. Allora, il distretto di Reggio Calabria è un'isola felice dove la corruzione non esiste, o semplicemente in quel distretto non viene scoperta, per molteplici ragioni. La mia personale opinione è che dove ce n'è di più se ne scopre di meno. perché il sistema è impermeabile alle investigazioni, appronta meccanismi e rimedi dove poi prende il crimine organizzato, il silenzio viene garantito anche con l'uso delle armi se necessario, quindi è ben più difficile scoprire questi casi. Dove più ce n'è e più c'è una autodifesa di chi corrompe. Sistema, insomma, dove il sistema è imperfetto, litigano ed è possibile agli investigatori introdursi in questi litigi e scoprire qualcosa, ma dove il sistema tiene perfettamente, non, le indagini non hanno alcun esito di norma. Ho letto un'immagine efficace che le è stata attribuita, non lo so se è vera, riguardante il 92, dicendo sostanzialmente noi all'epoca abbiamo migliorato, se si vuole, la specie predata, cioè i corruttori, abbiamo acchiappato le specie più lente, quelle più leste, quelle invece più veloci si sono adattate ed eccole qui. Ma vede, è una immagine che vale per qualunque attività repressiva, per qualunque reato, nel senso che gli organi preposti alla repressione penale selezionano ovviamente la criminalità prendendo i meno bravi e restano i più bravi. Sul lungo periodo, anche se Lord Keynes diceva che sul lungo periodo saremmo tutti morti, avviene anche il contrario, il miglioramento della specie predata, migliori predatori, perché devono imparare a affrontare nuove tecniche, eccetera, eccetera, un continuo miglioramento reciproco. Certo, negli ultimi 15 anni non è stato fatto nulla per cercare di frenare i fenomeni di corruzione o per consentirne una migliore repressione, ma è stato fatto molto per impedire la repressione dei fenomeni di corruzione. Per esempio? Per esempio una serie di leggi sull'acquisizione e la valutazione della prova che hanno determinato moltissime assoluzioni, dopodiché non è che si tratta di imputati innocenti che sono stati assolti, si tratta di colpevoli che l'hanno fatta franca. Ci sono casi davvero incredibili di persone confesse che poi hanno ottenuto provvedimenti di prescrizione e di archiviazione che continuano a ricoprire incarichi pubblici. Le chiedo, qualcuno ha detto allora nel 92 i partiti rubavano per i partiti, ora invece che quei partiti non ci sono più, sono crollati dopo anche le inchieste appunto di Tangentopoli, è più una questione di feudi locali, di clan, addirittura di bande, le definisce oggi Massimo Villone, ex senatore, lui che ha scritto Il costo della democrazia, di feudi, proprio di clan, di truppe cammellate che rubano un po' in maniera singolare. Allora dobbiamo dedurre che il crollo di quei partiti non ha portato a un giovamento? Ma intanto non è assolutamente vero che in allora il grosso della corruzione finisse a finanziare i partiti. Il grosso della corruzione finiva a finanziare articolazioni di partito, singoli gruppi interni, correnti, tesseramenti fasulli, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone risultavano iscritte ai partiti a loro insaputa, con le tessere che venivano pagate coi soldi delle tangenti, quindi i partiti venivano scalati come si scala una società in borsa, insomma, con la differenza che venivano fatte azioni false, ecco, diciamo così. Quindi non c'è una sostanziale differenza dal punto di vista concettuale, certo poi ci sono gradazioni in concreto. Senta, ma qualcuno dice che anche si risente il tintinnar di manette, insomma, con tanti arresti, con tante... Ma vede, è un errore grave sempre considerare la corruzione come un caso singolo, nel senso che la corruzione presenta due caratteristiche, è seriale ed è diffusiva. Seriale nel senso che di solito il corrotto tende a ripetere infinite volte lo stesso comportamento, il pubblico funzionario infedele perché dovrebbe vendersi una volta sola. Lo stesso l'imprenditore che anziché alle sue capacità manageriali affida alla corruzione il successo delle sue attività tenderà a reiterare questa attività sempre. La seconda caratteristica è la diffusività, una specie di contagio, dove c'è un corrotto presto tardi ce ne saranno due, poi quattro e così via, fino a quando saranno quelli per bene a doversene andare da quell'amministrazione, perché rappresentano un pericolo per gli altri e verranno messi in condizione di doversene andare. Allora, in un contesto di questo genere, pensare che siano possibili rimedi meno efficaci della custodia cautelare, come per esempio la sospensione dall'ufficio o misure interdittive, è di una sorprendente ingenuità. La corruzione, il più delle volte, è un sistema criminale e va affrontato come si affrontano gli altri sistemi criminali, impedendo anzitutto ai correi di comunicare fra di loro. Per ora c'è anche un'accusa che è rimasta un po' sotto traccia, però qualcuno l'ha buttata lì, inevitabilmente anche qualche editorialista, Antonio Polito su Riformista, anche qualche politico nel PD. Insomma, il rischio di, come lo vogliamo chiamare, una congiura, un attacco congiunto, un accerchiamento, una sindrome del partito della magistratura che sta cercando di affossare un altro partito? Ma sono un cumulo di sciocchezze. Se i partiti politici facessero pulizia al loro interno, ciò che accade nelle aule di giustizia non avrebbe nessuna influenza sulla politica. Se cacciassero via i ladri prima che questi vengano identificati e colpiti dalle attività giudiziarie, non ci sarebbe nessuna questione. Il problema è che restano al loro posto fino a quando arrivano i carabinieri a prenderli, qualche volta anche oltre. Mm. E dovrebbero però c'è la presunzione di innocenza, come la presunzione di innocenza vale nel processo penale, per gli effetti del processo penale, non vale nella vita di tutti i giorni. Io di solito faccio questo esempio: se invito qualcuno a cena e questo se ne va con la mia argenteria nelle tasche, non aspetto la sentenza della Corte di Cassazione per non invitarlo più a cena. La sentenza della Corte di Cassazione servirà per stabilire o no se deve andare in prigione o avere altre conseguenze giuridiche. I rapporti sociali, personali, risentono di valutazioni che io faccio sulla base degli elementi a mia conoscenza e non ho bisogno di attendere una pronuncia giudiziaria. Mm. C'è però, insomma, lei che clima vede? Lo so che, insomma, lei non può parlare di procedimenti in corso, di indagini giudiziarie aperte. Non intendo parlare. Però leggendo un po' sui giornali, voglio dire, la stupisce se non altro questo tema sia ritornato sui giornali, o la stupisce positivamente? Dice, finalmente almeno si può affrontare il problema, oppure... Lei ha citato prima il libro, che tra l'altro pubblica una considerazione svolta in un articolo che avevo scritto col professor Arnone. C'è una singolare coincidenza tra le fasi del ciclo economico e le indagini giudiziarie con esito positivo, nel senso che nei momenti di recessione di solito le indagini hanno esito positivo. Diciamo che me l'aspettavo, è la conferma di questa tesi. Se l'aspettava, insomma. Io, procuratore, la ringrazio per essere stato con noi, perché grazie, voglio ricordare, per Camillo Davigo, insomma, uno dei protagonisti di Mani Pulite, oggi è giudice alla Corte Suprema di Cassazione, per parlare di corruzione. È tornata Tangentopoli? Sembrerebbe di sì per alcuni, sembrerebbe di sì per il numero di inchieste, di questo vogliamo continuare a parlare. 800 24 00 24, ovviamente, per intervenire, la mail vivavoce@radio24.it, e lo facciamo con due esponenti politici. Saluto il senatore Achille Serra, buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori del Partito Democratico, così come saluto l'onorevole Stefania Craxi, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Stefania Craxi del Popolo della Libertà, sottosegretaria agli esteri, ma poi insomma figlia di Bettino Craxi, c'è poco da aggiungere. Allora, avete sentito tra l'altro quello che ha detto il procuratore Davigo. Senatore Serra, io partirei da una considerazione, io dico, lei senatore, poi magari facciamo anche un tuffo all'indietro, quando lei negli anni 90 era, insomma, protagonista per altri motivi, insomma, di Tangentopoli. È stato anche, da poco lo sappiamo, prima di essere eletto alto commissario per l'anticorruzione, quell'ufficio che lei ha già denunciato in passato, ma come, andava potenziato e invece è stato tolto. È anche questo un paradigma di come può funzionare in Italia? Non lo so, quello che è certo è che un anno fa, quando io dirigevo quell'ufficio, io dissi, e quindi in tempi assolutamente non sospetti rispetto a quello attuale, a quelli attuali, dissi, la corruzione è addirittura a un livello superiore a quella degli anni passati. Lo dicevo perché qui si è abituati soltanto a guardare i comuni, gli appalti ai comuni, ma io lo dicevo anche guardando alcuni ospedali e alcune cose che non andavano, soprattutto in certe zone del meridione. E lo dicevo anche perché l'OCSE ci collocava al 41esimo posto in Europa, nel mondo tra gli ultimi posti, e quindi non era una scoperta quella che io facevo un anno fa. Puntualmente, a distanza di alcuni mesi, quelle cose si sono verificate. Tangentopoli, non Tangentopoli, questo del Tangentopoli è un tormentone, qualcosa, sai. È un qualche cosa di giornalistico più che altro, ma al di là delle frasi fatte, io direi che la corruzione ha un livello molto elevato oggi in Italia, che non si è placata, non si è placato il vento della corruzione, e che quindi è necessario mettere in campo tutti gli strumenti per contrapporsi a questa nuova ondata. Senta, ecco. Ma lei che è una vita nelle forze dell'ordine, insomma, un uomo delle leggi, che ne pensa di quello che sta succedendo attorno al Partito Democratico, nel quale lei è ora? Penso che sia molto negativo, ma che Io non la vedo in questi termini come Davigo. Penso che allora era un sistema, adesso e che molti prendevano soldi illecitamente, ma per sostenere i partiti, non sempre questo accadeva, talvolta c'era chi se li metteva in tasca per fini propri. Oggi probabilmente è diverso, oggi non mi pare più un sistema, mi pare soltanto il malcostume di questo o quel personaggio, e allora questo e quel personaggio devono essere messi alla porta prima ancora che in galera, alla porta se sono responsabili, cioè fuori. È evidente che questo danneggia il Partito Democratico. Ma come, senza aspettare una pronuncia di un giudice? Perché questo è il tema anche essenziale, fondamentale. Fuori, aspettando una sentenza che chissà quando mai arriverà, come lei sa. La sentenza oggi in Italia è uno dei mali endemici di questo paese. Per arrivare alla sentenza, che poi non è la sentenza, è la sentenza passata in giudicato. Esatto, tre gradi. Di solito passano 10 anni. Ecco, non si può aspettare 10 anni, né si può fare giustizia sommaria. Attenzione, ma non c'è dubbio che se ci si trova in una determinata situazione per motivi di opportunità sarebbe bello che chi in qualche modo risulta implicato se ne andasse da solo, chiedesse di essere sottoposto a interrogatori, soprattutto che decidesse per motivi di opportunità di lasciare la sedia, la poltrona. Quando questo non accade è necessario che il partito prenda dei provvedimenti. Senatore, siamo in Italia, è matto lei lasciare la poltrona? Sì, no, io credo che sei impazzito, stamattina sei alzato impazzito. Credo che sia una follia quella che ho detto, perché la poltrona non la lascia nessuno, basti pensare a quello che sta succedendo alla RAI, basta pensare all'età, che evidentemente sono cose che nuociono non solo il Partito Democratico, tutti i partiti che soffrono queste cose. Io vorrei andare da Stefania Craxi. Craxi, lei ha ha distribuito in questi giorni il discorso che suo padre fece nel 92, il famoso discorso alla Camera il 3 luglio del 92. L'ha distribuito cioè in forma stampata a tutti. Perché? Cosa vuol dire questo gesto? Intanto era il coraggioso tentativo di dare una soluzione politica allo scandalo del sistema delle tangenti, la sollecitazione a un cambiamento generale che avrebbe restituito moralità alla politica, avrebbe difeso l'istituzione della democrazia, recuperato la fiducia dei cittadini nel partito e nelle istituzioni e non certo, come l'hanno definito, una chiamata di correo. Vorrei anche precisare che mio padre non è stato né un corrotto né un corruttore, non c'è alcuna, nei processi di Craxi non c'è alcuna prova reato, che vuol dire la prova che qualcuno abbia dato dei soldi per fare qualche cosa, perché la corruzione è un reato preciso. È stato molto interessante sentire le dichiarazioni prima del dottor Davigo. Mi dispiace non abbia voluto interloquire con me. No, ma non è che non ha voluto interloquire con lei, poteva stare 10 minuti in apertura. Capisco. Vabbè, comunque, perché bisognava anche dire che l'80% di quei processi sono finiti senza condanne, come per esempio quello di Giovanni Donegaglia, che stamattina, ex capo della COP Costruttori, che stamattina fa una bella intervista al giornale, sì. 37 processi e nessuna condanna. Bisogna anche dire che alcuni filoni di inchiesta allora non furono seguiti, vorrei ricordare uno per tutti il famoso miliardo di Gardini consegnato a Botteghe Oscure, dove nessuno mai indagò, se fosse successo in un altro partito avrebbero arrestato anche il portiere. Ha anche detto altre cose interessanti Camillo Davigo, che c'è un problema di corruzione della società, ma la magistratura non deve moralizzare la società, ma deve colpire il fatto reato. Anche questa è una cosa che va detto. Ma quando lo fa poi viene accusata di essere il partito delle toghe che... No, il fatto reato è un fatto preciso, che appunto esiste un fatto che deve essere provato, e che se questi processi sono finiti nell'80% in nulla, un motivo ci sarà, a meno che non vuole sostenere Camillo Davigo che tutti i giudici di questo paese sono corrotti. Qui non c'è, io non ho le statistiche, non so, lei dice l'80%, io non ho le statistiche in mano per contrastare questo suo 80%, però... Insomma, non è la ricostruzione adesso di Tangentopoli da allora, dire che era un enorme... Detto questo, lei fa una domanda molto interessante, cioè lei dice, è Tangentopoli? Ma io credo una cosa, è stato detto, non mi ricordo da chi, che le tragedie della storia quando si ripetono diventano farsa. Io credo che tra Tangentopoli e gli odierni scandali ci sia un abisso. L'offensiva degli anni 90 contro i socialisti e gli altri partiti coinvolse il grande capitale, la stampa, la magistratura, il Partito Comunista, che insieme alla Lega, all'MSI e anche con pesanti responsabilità dell'allora Presidente della Repubblica offrirono ai golpisti, perché si trattò di un golpe mediatico giudiziario, la copertura politica. Oggi siamo di fronte a un partito che, incapace di fare politica, vede aprirsi nel suo seno la piaga del clientelismo. Anche questo è stato detto dagli ospiti precedenti. Sì. Lei dice era un golpe mediatico giudiziario, è stato a Tangentopoli. Basta vedere i numeri, stiamo parlando di migliaia di persone che hanno perso l'onore, il lavoro, qualcuno la vita e qualcuno anche la famiglia. Detto allora, questo, ripeto, con processi che nella stragrande maggioranza sono finiti in nulla. Allora, su questo vado da un ascoltatore e poi torno allora da Achille Serra, insomma, per capire. Ecco, Achille Serra, ecco, ha ben visto ragione che lui, quando dice che sì, la corruzione copre più ambiti della società, dagli appalti alle scommesse clandestine a molti altri ambiti. E allora, mi lasci andare da Luca da Torino, poi voglio andare da Serra, così voglio capire anche, visto che ha una retrospettiva, Serra in quegli anni, tra l'altro subito successivamente era proprio a Milano in altri ruoli, la lettura sua di Tangentopoli di allora. Luca da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grazie per lo spazio. Ma io ho avuto modo, sostanzialmente per motivi di lavoro, di venire, diciamo così, nel merito del discorso della gestione patrimoni immobiliari e quant'altro. Quello che ho notato, che secondo me probabilmente poco si dice, e basterebbe, secondo me, andare a leggere i contratti che vengono stipulati tra le parti. Cioè, il fondamento alla fine probabilmente è un altro modo di corruzione. Sì. Che cosa c'è scritto sostanzialmente? Sostanzialmente c'è scritto che cioè, tutto il potere decisionale nell'amministrare qualcosa di qualcun altro, a prescindere di chi, è nelle mani di chi lo amministra, di chi lo gestisce. Per cui ad un certo punto si innescano dei meccanismi per cui, se, non so, cambia una legge, sostanzialmente, non so, faccio un esempio banale, cambiano le aliquote per gli affitti, ok? Quindi chi gestisce deve andare ad adeguare i determinati sistemi affinché questo cambiamento non è previsto nel contratto, cioè non è previsto che avvenga, diciamo così, gratuitamente. Se dice, per cui, sì, nel momento in cui cambia una cosa del genere, l'operatore privato può chiedere, anzi si può astenere da fare questa modifica, a meno che non la si paghi. Vabbè, insomma, lei dice, Luca, anche nelle cose concrete, nei contratti, c'è, si può leggere sostanzialmente, potrei riassumere così la sua telefonata, a volte la corruzione viene anche messa per iscritto nei contratti. Senatore Serra, prima di andare in pubblicità, vorrei una sua lettura, insomma, quello che ha detto Stefania Craxi, a dire fu un golpe mediatico giudiziario, tanti processi finiti nel nulla. Lei che ricordo ha di Tangentopoli? Ma io ovviamente la stima che ho per la sottosegretaria Craxi mi induce a non parlare in concreto dei fatti, nel dettaglio, insomma, quindi certamente mi guarderò bene e non mi riferisco assolutamente al padre. Quello che voglio dire è che nelle sue condizioni, cioè nelle condizioni di Stefania Craxi, anch'io avrei una visione molto nera della situazione, quindi è giusto che una figlia parli così, e io non intendo parlare di quel procedimento, anche perché ne so molto poco. Parlo invece della parola golpe. Ecco, voglio soltanto ricordare che non tutti i casi sono andati a finire con assoluzioni e archiviazioni, ma ci sono state molte condanne ed alcune molto pesanti. Quindi è necessario guardare le cose con il massimo distacco e la massima obiettività. Ci sono state delle cose abnormi, delle assoluzioni giuste, delle prese di posizione a mio avviso sbagliate da parte, quindi ci sono state prese delle cantonate, parliamoci chiaro, ma sono state portate a termine anche numerosi processi. In definitiva non è possibile negare che allora esisteva un sistema per cui io imprenditore, se volevo un appalto, quasi sempre dovevo versare la mazzetta, dovevo corrompere, e non si può negare che molti politici prendessero quella mazzetta, probabilmente molti affini di finanziamento ai partiti, altri per mettersela in tasca, ma questi erano i mariuoli. Ma ecco, negare che ci fosse un sistema mi sembra difficile. Fermo restando, e lo voglio sottolineare per sottolineare quello che diceva il sottosegretario, che alcune cantonate sono state prese. Quando si prendono quelle cantonate sono molto gravi, perché poi abbiamo assistito a suicidi, abbiamo assistito a fatti gravissimi. Però dice, fare di tutto un erbo un fascio mi sembra che non si può dare un giudizio così duro. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare, insomma, come ci sia questa differenza. Allora la politica aveva in mano il pallino del gioco, mentre invece ora sono gli imprenditori che hanno il pallino del gioco e tengono in pugno la politica, almeno a leggere dalle intercettazioni. E tra l'altro ci ha raggiunto, lo saluto, Guido Ruotolo. Buongiorno Ruotolo, cronista della Stampa, insomma, sempre ben informato, e sta seguendo ovviamente passo passo questa inchiesta, l'ultima, quella di Napoli, anche se si sta diramando un po' altrove. E con noi ci sono ovviamente il senatore Serra, l'onorevole Stefania Craxi. Andiamo da Maurizio, da Bolzano. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io vivo qui, per fortuna qui c'è un po' meno corruzione, mi sembra. Non sarà proprio un'isola felice, non sarà tutto perfetto, ma siamo amministrati dai tedeschi. Questo è il dato di fatto. C'è questa visione antropologica, ce n'è meno o forse viene scoperta meno, non lo so, voglio fare questa provocazione. La magistratura funziona molto bene qui, ha preso anche degli elogi a livello nazionale la magistratura. Ma lo so, il procuratore capo Tarfusser è stato anche il nostro ospite e elogiato vieppiù a livello nazionale e non solo. Quindi lei dice, fa questa provocazione molto dura, siamo amministrati dai tedeschi, poi non è così, insomma, ma abbiamo capito benissimo il senso del suo intervento. Va bene, caro Maurizio, la ringrazio. Io vorrei, Stefania Craxi, cosa ne pensa della decisione, della proposta della riforma della giustizia, nella quale si chiede anche la limitazione delle intercettazioni per i reati fino a 10 anni, Berlusconi pare che dica bisogna alzarla fino a 15 anni, dall'opposizione dicono ecco, questo è il colpo per poi mettere a tacere tutti i rischi di fermare questi tentativi di corruzione. Lei è questo il sistema migliore secondo lei? È di ieri una lettera accorata della giornalista Barbara Palombelli che si lamenta di essere finita nel tritacarne delle intercettazioni, benvenuta sulla terra, perché anni fa, quando tutti siamo finiti con conversazioni assolutamente private e personali nel tritacarne del circo mediatico, nessuno disse niente, nessuno protestò. Oggi lei dice incatenatevi, anche noi ci incatenavamo, ma ci incatenavano gli altri quando dovevamo difendere. Basterebbe che non uscissero sui giornali, credo, per esempio. Io sono assolutamente d'accordo che le indagini, intanto finché c'è un processo in corso, non devono finire le intercettazioni di nessuno sui giornali, perché possono anche essere influenzanti di un giudizio, tanto per cominciare. Men che meno devono finirci intercettazioni di persone che con i reati non c'entrano. E io credo che debbano essere usate le intercettazioni con grandissima cautela nei reati più gravi. Abbiamo di recente assistito a un signore che ha speso, credo, 60 milioni di euro per spiegarci che in Italia, nel mondo dello spettacolo, ci sono ragazze leggere, e questo non solo va a discapito della giustizia, ma anche del contribuente. Io credo, sono stata la prima che ha presentato un disegno di legge in Parlamento sulle intercettazioni, che debbano essere regolate e soprattutto deve essere tutelato anche chi è colpevole, non può essergli rovinata la vita a lui e ai suoi familiari, anche perché esiste in Italia la presunzione di innocenza. Sì, ma detto questo, voglio dire, non c'è il rischio di, con queste intercettazioni, di allora, che non finiscano sui giornali, sono d'accordo anch'io, dopodiché che vengano limitate alla magistratura, come si fa, insomma, poi a bloccare questi... Abbiamo anche assistito al caso di intercettazioni totalmente illegali che ancora esistono, non sappiamo dove sono, intercettazioni che sono finite nei processi perché estrapolate quando ancora, come dire, il procedimento giudiziario non era stato avviato. Questo io credo che sia indegno di un paese civile e democratico. Detto questo, le intercettazioni ci sono state sul PC, oggi PD, tant'è che oggi Donegaglia dice il PC è sempre stato il nostro socio occulto, socio di fatto, socio di riferimento. Dice: la sola cosa che mi stupisce è che oggi si intercettano le telefonate, allora ci parlavamo a quattro occhi, quindi insomma se uno vuole delinquere, delinque anche senza telefonare. Sì. Senatore Serra, sul tema delle intercettazioni, perché poi voglio andare da Guido Ruotto, insomma, perché anche questa inchiesta, le intercettazioni appaiono sui giornali. Intanto mi lasci dire che sono assolutamente d'accordo con Stefania Craxi. Forse lo sono un po' meno quando poi si toccano i partiti. Io non farei un discorso politico di fronte a un fatto giudiziario, di fronte a un fatto di illecito. Lasciamo stare PC, DC e quant'altro, parliamo di cose concrete. Sono d'accordo col sottosegretario, sarei spietato e credo che dovremmo essere tutti sullo stesso livello, sarei spietato con chi pubblica delle intercettazioni o peggio ancora con chi dà alla stampa questi verbali. Sarei spietato e metterei un divieto assoluto. Quanto al fatto sono assolutamente d'accordo con Stefania Craxi quando dice non si possono spendere tutti questi milioni per stabilire che ci sono delle ballerine che fanno mal costume. Sono assolutamente d'accordo. Detto questo, però, limitare le intercettazioni mi riesce veramente difficile pensarlo. Io sono stato per tanti anni tecnico e credo anche in prima linea sempre, e le assicuro che l'intercettazione è uno degli strumenti più importanti nell'indagine. Noi non possiamo buttar via l'intercettazione perché ci sono degli sciagurati che, senza rendersi conto che rovinano la vita della gente, danno dei verbali ai giornalisti e altri giornalisti che poi li pubblicano. Non possiamo per questo buttare via uno strumento o limitare in modo macroscopico uno strumento che, le assicuro, e qua parlo veramente da tecnico, serve. È uno degli strumenti fondamentali. Però insomma la sua durezza, Guido Ruotolo, Guido, allora ti vorrei coinvolgere su questo, insomma, poi parliamo un attimo dell'inchiesta, sulla durezza per chi pubblica le intercettazioni, dice il senatore Serra. Naturalmente sono radicalmente contrario a quanto detto dalla sottosegretaria Craxi sulle intercettazioni. Io la penso così: se passasse il disegno di legge annunciato da Berlusconi, noi non avremmo potuto raccontare questo ennesimo spaccato di politica e affari schiati di corruzione, di associazione a delinquere. Seconda questione, queste intercettazioni sono pubbliche, nel senso non sono pubblicabili, ma sono atti conosciuti alle parti, nel senso che quello che abbiamo scritto in questi giorni sta nell'ordinanza di custodia cautelare, consegnata, depositata agli indagati, agli avvocati, agli avvocati e così via. Terza questione, questo appunto, se passasse il disegno del presidente Berlusconi, cioè di limitare le intercettazioni solo ad alcuni reati gravissimi come terrorismo e come la mafia, credo che sia un fatto anche culturale di un grande errore. Perlomeno io sono radicalmente contrario, perché io penso che la corruzione sia un reato grave che crea allarme sociale tanto quanto la mafia e il terrorismo, perché ci consegna uno spaccato di collusione, di affarismi, di mercato drogato, per cui vince l'imprenditore amico, vince l'imprenditore che dà le mazzette, insomma anche tutti questi signori che fanno sempre, come dire, l'esaltazione del libero mercato. Questi spaccati ci raccontano di un paese in cui non c'è il libero mercato, perché funziona così. L'inchiesta di Napoli addirittura è un ulteriore passo drammatico verso un'altra dimensione. Noi negli anni di Mani Pulite avevamo le segreterie dei partiti che si spartivano gli appalti e le tangenti con i grandi gruppi industriali, con i grandi, pensiamo a Enimont e così via. Qui abbiamo è il contrario. Qui abbiamo una politica di serie B in cui assessorucoli, in cui politici che vogliono fare il grande salto sono al servizio di un imprenditore spregiudicato che era già stato coinvolto e condannato per la prima Mani Pulite. Questo è un aspetto interessante, Guido, che ha introdotto, perché nella domanda di fondo della puntata: è tornata Tangentopoli o non è mai finita? C'è da dire che l'avvocato Romeo, che è il fulcro, insomma, su cui si poggia tutta questa inchiesta, già fu condannato nella prima Tangentopoli. sì, è il dominus di questa inchiesta, ma io vorrei anche dire che questa inchiesta che ha portato a questi arresti e alla decapitazione della giunta Iervolino è soltanto una piccola parte dell'inchiesta madre che sta a Napoli e che produrrà ulteriori scossoni nel prossimo futuro. I tempi della giustizia non sono quelli della politica, quindi non so determinarli. Ma in regione? Certo, perché questa inchiesta nasce con il monitoraggio degli appalti pubblici in Campania, in provincia di Napoli. Il suo epicentro vero è il provveditorato alle opere pubbliche regionali, che è l'emanazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture. E questa inchiesta, facendo questa inchiesta che si intercetta il caso Romeo, però appunto è un'inchiesta più generale che riguarda tutta una serie di appalti, di altri appalti, ma questo sarà il futuro che ci dirà. Futuro prossimo o meno. Nelle intercettazioni, tra l'altro, Guido, Romeo parla anche di Roma. Infatti tutti dicono, e tu già l'hai scritto un paio di giorni fa, ora il rischio è che si coinvolga anche Roma. Che vuol dire quando Romeo in un'intercettazione dice Romeo, Roma è la mia fidanzata? Romeo, che a Roma ci sta da tempo, che cura la manutenzione di edifici pubblici istituzionali, dal Quirinale a Palazzo Chigi, al Ministero dell'Interno, a quello dell'Economia, voleva pure ritornare al suo grande amore. Lui è iniziato come la sua attività professionale, è iniziato, lui lavorava per un'agenzia immobiliare, Le Case. Lui a Roma già c'era prima di Napoli, con il Global Service della manutenzione stradale. Infatti i napoletani devono andare a Roma a capire come hanno costruito il meccanismo lì che ha garantito evidentemente la vittoria dell'appalto a Romeo. Un piccolo inciso, questo è un punto che Roma deve approfondire, perché quell'appalto fu in qualche modo rimesso in discussione dal TAR sulla base di un ricorso di una ditta concorrente che era stata esclusa, e in quella fase lì ci sono le intercettazioni telefoniche tra l'onorevole Renzo Lusetti e Alfredo Romeo. Si deve lavorare e intervenire su un consigliere di Stato per cercare evidentemente di ribaltare questa sentenza, come effettivamente avverrà dopo. E questo punto è il vero nodo che riporterà a Roma, che la Procura di Roma dovrebbe approfondire, la rimessa in discussione di quella sentenza del Consiglio d'Stato sulla base di queste indicazioni che vengono dalle telefonate di Romeo e di Lusetti. Poi c'è il piano case, che è un ulteriore capitolo, tutto ancora da approfondire, e qui c'è una sorta di scambio delle parti. È Napoli che deve imparare, cioè ancora una volta Napoli deve fare il piano casa, a Roma Romeo già si sta lavorando, è la mia fidanzata, dice il comune di Roma. Se, questo poi naturalmente è tutto da... non serve approfondire l'inchiesta da questo punto di vista, perché quel piano casa non si è fatto, non è ancora bloccato a Roma, i 20.000 alloggi, però è un tema d'approfondimento, questo sì. Molto serio. Tra l'altro anche a Bari la vicenda Romeo insomma pare esplosa, perché gestisce anche lì i beni dell'amministrazione. Credo che il sindaco di Bari abbia detto, sindaco del PD Emiliano, ex magistrato tra l'altro, abbia dichiarato: ora questo signore dobbiamo togliergli tutto, voglio vederci chiaro. Ma insomma, questo per dire come l'inchiesta rischia di essere tentacolare. Un ascoltatore, Ferruccio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che nella prima Tangentopoli molti processi non hanno portato a condanne, anche perché durante il tempo del processo sono state cambiate le regole, per cui tante testimonianze non sono più state utilizzabili perché non erano fatte secondo le nuove norme, eccetera, e il falso in bilancio è diventato non più un reato. Allora praticamente la politica è corsa ai ripari modificando le norme e quindi impedendo che i processi arrivassero a portare a termine le cose. Poi sì, di quelli magari c'erano molti che erano innocenti, però ce n'erano anche magari altri che sarebbero stati condannati, e questo consente ancora adesso di andare avanti con le tangentopoli, perché se il falso in bilancio non è più reato, allora una ditta può mettere in nero dei soldi da utilizzare per pagare le tangenti, per cui si va avanti così. Va bene, grazie Ferruccio. Onorevole Craxi, le vorrei fare una domanda un po' dura, insomma. Lei ha già detto che ha distribuito il discorso di suo padre, il motivo ce l'ha detto, cioè perché in quel discorso secondo lei c'era questo tentativo di dare una soluzione politica allo scandalo del sistema delle tangenti. Però insomma, suo padre è stato anche condannato, voglio dire, mandare un discorso lei fatto... Lei ha mai letto le sentenze di mio padre? No, vabbè, però non dobbiamo rifare il processo, sono sentenze passate in giudicato, due... E dicono, si può dare atto a Craxi che nessuno abbia dato tangenti a sue mani o che lui le abbia richieste per il suo partito, ma se questa circostanza ha valore dal punto di vista estetico, non ha nessun valore dal punto di vista penale. Ma le ripeto, non dobbiamo fare non dobbiamo rifare il processo, mi affido alle sentenze dei magistrati, voglio dire, è un dato... Spero che non le capiti mai. Ma che cosa vuol dire spero che non le capiti mai? Cioè sono sentenze, voglio dire, non si sto... Sono state condannate dalla Corte Europea di Strasburgo le sentenze di mio padre, vorrei ricordare. Va bene, insomma, quindi lei rivendica questo gesto e dire il discorso, non c'è problema che se lo leggano tutti. No, io chiedo un'altra cosa, che oggi la politica si prenda la responsabilità che non si prese 15 anni fa, perché io sono molto d'accordo con Ruotolo quando dice che si tratta di un mercato drogato, perché quando Donigaglia dice che il partito interveniva nella gestione della Coop Costruttori, fu il partito a ordinarmi di salvare la Felisatti, la CEI, la Coop di Ferrara, la Cercom di Porto Garibaldi, questa non è corruzione. E ha molto ragione Ruotolo quando dice un'inchiesta che si allargherà, c'è da capire se salveranno Veltroni, che sarà comunque un uomo sotto ricatto. Però io credo che il punto sia questo, bisogna finalmente dare avvio a quella grande riforma istituzionale, politica, morale che investe il Paese, perché sennò non usciremo da 1100 altre tangentopoli. Lei ha posto l'accento ancora su questo aspetto sul quale vorrei coinvolgere il senatore Serra, sul fatto, dice Stefania Craxi, allora si salvò il PC, insomma, ora PD, e poi bisogna capire, insomma, PD e PC sono due cose un po' diverse. È un regolare conto che arriva con un po' di anni di ritardo, senatore Serra? Ma io non vedo nessuna connessione tra il PC e il PD, così come non vedo nessuna connessione tra allora e oggi. Sono dei momenti diversi, parliamo di partiti e ideologie diverse, ma perché, mi domando, perché parlare di questo? Perché parlare di Craxi? Perché parlare di sentenze? Io credo che dobbiamo guardare la realtà oggi. La realtà oggi dice anzitutto che c'è una corruzione dilagante. Secondo, che si vogliono abolire le intercettazioni, e per me sarebbe un errore macroscopico abolire le intercettazioni. Terzo punto, nessuno ha parlato, ma che stiamo facendo? Quali sono gli strumenti di contrasto? Io vedo un alto commissario per la lotta alla corruzione che dava pochissimi risultati con quei mezzi a disposizione, che comunque è stato annullato. È stata fatta una conferenza stampa a giugno dal Presidente del Consiglio che diceva e annunziava un nuovo ufficio straordinario. Sono passati sei mesi, non si è vista una carta, non si è vista una pratica. Parliamo di queste cose, ma lo dico non come sempre mi succede, non in termini critici. Ma in termini costruttivi. Credo che sia stato messo all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica, quello di Brunetta, insomma. Lei che avrà... ha sentito parlare in questi sei mesi? No. Ripeto, non lo dico in termini critici, ma in termini costruttivi. Parliamo di quello che possiamo fare e di quello che non dobbiamo abolire. Anche perché è un dipartimento con la lotta alla corruzione all'interno di un ministero, insomma, comunque non c'ha quell'autonomia, insomma, evidentemente per controllare. Guido Ruotolo, quello che succederà nell'inchiesta, nei sviluppi dell'inchiesta, qualcosa ci hai anticipato. Però effettivamente molti dicono che in queste intercettazioni non si vede esplicitamente la dazione di denaro, una presunta mazzetta, non si parla di soldi. È tutto un po' lasciato a una questione di rapporti personali, tu mi fai questo, poi io magari sistemo di là, io faccio così, tu allora poi mi aiuti da quell'altra parte, però non c'è qualcosa di concreto, o c'è? Intanto inviterei tutti a leggere queste intercettazioni da due punti di vista, quello giudiziario e quello politico. Allora, prima questione è quello politico, perché poi come sempre succede, c'è sempre l'alibi di dire vabbè, ma questa inchiesta è debole perché appunto non si vedono i soldi, ci assolviamo così sia e amen così sia. Non è così. Da queste intercettazioni, leggendo queste intercettazioni e questa inchiesta, viene fuori uno spaccato appunto, torno a ripetere, di una politica vergognosa che deve scandalizzare e far scandalizzare e non far autoassolvere appunto questo ceto politico napoletano, che poi non è solo napoletano, perché la storia di Bari è uscita sui giornali oggi, sì. Ma perché sta addirittura alla fase finale. E certo, il 12 gennaio credo che Romeo debba comparire in aula. Ma siamo parlando, quindi questo lo voglio ricordare anche per tutti quelli che continuano a dire sempre del discorso della giustizia e orologeria, per favore, i tempi della giustizia sono quelli che devono essere. Seconda questione, se lo vediamo dal punto di vista processuale, questa è un'inchiesta che sta in questa fase iniziale, nel senso, come sapete, siamo nella fase delle indagini preliminari, si è arrivati a un certo punto, la Procura della Repubblica ha ritenuto di dover fare un primo punto, che per la delicatezza delle indagini era necessario procedere con la custodia cautelare, il GIP gliel'ha date alcune, gran parte tutti agli arresti domiciliari, proprio oggi la Procura presenterà appello e ricorso al Tribunale del riesame perché ritiene gli elementi tali indiziari talmente gravi che questi indagati potrebbero inquinare le prove e quindi dovrebbero essere portati in carcere. Dal punto di vista processuale la dazione fisica materiale non c'è stata, perché? Secondo la Procura, perché a un certo punto il 30 gennaio scorso il servitore infedele, la divisa infedele dello Stato, questo colonnello della finanza, avrebbe saputo dell'indagine in corso e avrebbe avvisato gli indagati. E quindi questo treno che stava arrivando ha fermato tutto. Ha tentato di fermare tutto e quindi questi appalti, queste delibere Global Service per il comune e la provincia, poi non si sono concretamente materializzate. A proposito del colonnello, siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi, Guido Ruotolo. È lui che ha detto del procuratore capo Lepore sostanzialmente, ma quello voleva farmi assumere un suo amico, insomma, il procuratore ha detto qua c'è il rischio di voler inquinare delegittimando gli investigatori. Sì, questo è un tentativo maldestro di inquinamento dell'inchiesta, tentativo di farla saltare, e giustamente il procuratore di Napoli, insomma, ieri proprio ha lanciato questo grido d'allarme dicendo questa inchiesta deve restare a Napoli, siamo determinati a portare avanti tutti gli atti necessari perché questo continui ad essere appunto un'inchiesta napoletana. Sì, perché ha detto anche forse qualcosa di più, ce la vogliono, o magari non così esplicitamente, ma c'è il rischio che ce la vogliano sottrarre per portarla a Roma. Staremo a vedere, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, da Pier Camillo Davigo, l'onorevole Stefania Craxi, il senatore Achille Serra e Guido Ruotolo della Stampa. Ci fermiamo qui. Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matè in regia con Viva Voce. Ci ritroviamo domattina.